yo te son, bro, y a tu familia la de son, bro, papi, tengo grasa en el oro, no, ay, ay, dale, dale, dale, dale, simo, dale, y dale, dale, simo, dale, simo, dale, yo te quiero ver, dale, dale, dale, dale, con este booty yo te son. Con este burillo de son.